diciamo. Se usi uno strumento per vedere in watt la cordata che ti dà la radio, quindi un rosmetro, allora puoi tenere il tastino dell'automatico della radio inserito, ma non puoi usare due accordatori. Tu non sei in disaccordo con l'antenna, sei in disaccordo con l'accordatore esterno che hai messo. Se c'hai già l'accordatore della radio, come fai tu a inserire un altro accordatore? Fammi capire. È chiaro che ti fa in disaccordo e quindi quello che ti sta segnando non è più reale. Va bene, stacca l'accordatore esterno. Cosa te ne fai dell'accordatore esterno se c'hai l'accordatore su automatico e lo strumento di quella radio? Te lo dico perché te lo dico io, che non ci piove. È precisissimo. Se quando tu metti in automatico e vai in SWR all'accordata, quello ti segna 1 e 1 e 1 e 1, vai tranquillo, non ci piove. Bocca a Niro, mi si è accordato la minoretta, non te ne fai niente, puoi mettere solo un rosmetro, ok? Un rosmetro, quindi uno strumento di misura, non un accordatore. Un rosmetro, un wattmetro, non un accordatore, perché l'accordatore con la doppia, con doppio ingresso di accordata tra quello automatico e quello manuale va in disaccordo. Allora ti spiego, io esternamente all'uscita ho il rosmetro, non ho l'accordatore, capito? Ho il wattmetro, non ho l'accordatore come strumento di controllo in uscita. Adesso l'accordatore dell'apparato è disinserito, ok? Adesso è disinserito. I picchi di modulazione che vedo sullo strumento, che adesso è messo sul rosmetro, diciamo, mi dà picchi, diciamo, picchi negativi. Ok. Adesso ho messo in power, sarebbero i watt che sta togliendo fuori lui, e mi dà i picchi negativi. Sull'apparato mi dà picchi positivi. Allora, ok, adesso ho inserito l'accordatore. Okay. fatto adesso mi sta dando picchi positivi anche sullo strumento esterno. Ma è cambiato qualcosa? I picchi modulazione erano 10 a 9 e 15. Evidentemente l'accordatore fa quel lavoro lì, lascia decidito, e te li deve dare anche quando fischi, te li deve dare sul parlato, magari non te li dà al fischio massimo di modulazione, te li dà anche sullo strumento il biglietto mio. Vulcano, ma non c'era stamattina, adesso era uscito a fare qualche commissione, boh.